Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Buonasera, ben ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà per una nuova puntata di Overbooking, questa sera in compagnia di Alessandro Fantin, che ringrazio e saluto per essere qui con noi. Ciao Alessandro. Buonasera, grazie a voi della vostra disponibilità. Allora, Alessandro ci porta un lavoro che lo ha coinvolto, diciamo, 5 anni quasi, in qualche modo, e che, diciamo, si è intrufolato nella sua vita universitaria e è diventato una grande passione, tanto che da una prima tesi triennale, ci dicevi, passa a una tesi specialistica molto più sviluppata. E qual è l'argomento? Allora, l'argomento è la raccolta di testimonianze di sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti. È un lavoro che mi ha portato a spendere 5 anni della mia, diciamo, vita universitaria, spesi però in maniera molto ma molto positiva per quanto mi riguarda, sia come per la soddisfazione del lavoro che comunque è uscito da questi 5 anni, ma anche per i rapporti umani che comunque sono riuscito ad avere con queste persone che parlano spesso malvolentieri di quanto gli è accaduto, chiaramente, visto che sono esperienze veramente terrificanti. Sotto alcuni punti di vista possiamo dire che sembrano quasi delle cose incredibili. Facendo una premessa per i nostri ascoltatori, tu raccogli una serie di interviste, se possiamo chiamarle così, di ex deportati sopravvissuti ai campi di sterminio. In che modo lo fai? Come riesci a entrare in contatto con queste persone? Allora, io, avendo il primo di questi ex deportati, è mio nonno, Luciano Battiston, che risiede in un paesino nella provincia di Pordenone. Tramite lui ho avuto i cosiddetti agganci, anche e soprattutto grazie all'associazione ANED, l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati nei campi di sterminio, e grazie a loro sono riuscito ad avere i contatti di queste altre persone, uomini e donne. Sono 8 persone, 2 donne, e i rimanenti 6 sono uomini. Allora io, dopo averli, diciamo, sentiti per telefono, aver avuto l'ok per entrare nella loro vita familiare vera e propria. Mi sono scritto l'indirizzo, preso la macchina e ho incominciato a macinare chilometri. Macinando chilometri, ho anche portato con me un magnetofono su cui registravo parola per parola tutto quanto quello che mi dicevano gli intervistati. Intervistati in un primo momento che erano sicuramente tesi e spesso erano anche, insomma, non sapevano se dirmi certe cose o meno. Il problema è appunto questo, quando entri nella vita, in una vita soprattutto che hai cercato di seppellire con il tempo, è molto duro ridirlo ad una persona che fino a 5 minuti prima tu non avevi mai visto. Infatti, sì, si può immaginare. E ci dicevi che tu eri accompagnato da tuo nonno tante volte per questa cosa. Assolutamente sì, ero accompagnato da mio nonno, da mio padre e da il signor Vittorio Rosolin, che è il segretario dell'Associazione degli ex deportati politici di Udine. E in questo modo, questo ti facilitava poi entrare in contatto con queste persone. Assolutamente sì, tenendo conto che c'è una testimonianza del signor Antonio De Nardi che non aveva mai fatto a nessuno, nemmeno ai suoi parenti più stretti. Quindi Pensa a te. una sorta di scoop, diciamo, chiamiamolo così, di uno scoop storico. Io raccoglievo, per spiegarvi, diciamo, per sommi capi il lavoro, raccoglievo tramite il registratore l'intervista, la sbobinavo. Chiaramente il lavoro di sbobinatura può anche richiedere 2 mesi, perché se non sei sicuro, perché è giusto anche rendere, secondo me, le emozioni che ti dava mentre tu registravi la cosa, e quindi cerchi tramite, che ne so, delle parentesi tondi, delle parentesi quadre, di rendere anche, che ne so, se ci sono dei suoni onomatopeici, se il tuo test incomincia, che ne so, ad alterarsi durante O a o a balbettare perché balbettare. magari. E chiaramente questo è proprio un lavoro di storia orale, una storia orale vero e proprio. Eh sì. Quindi, oltre alla testimonianza sbobinata, anche le emozioni, almeno cerchi di ridare al lettore le emozioni che provavi mentre lo sentivi e le emozioni soprattutto che ti dava il test, cosa fondamentale per entrare nel clima. Certamente. Queste 8 persone che hai intervistato hanno esperienze comuni, ossia vengono deportati più o meno nello stesso periodo e in luoghi simili, oppure hanno delle storie completamente diverse? Allora, partiamo dal periodo. In senso cronologico, partiamo tutti dal 44, nel 1944. Per quanto invece parliamo dei trascorsi, ci sono situazioni diverse. Si parla di semplici giovani rastrellati per punire di atti fatti dalle forze partigiane. Si parla invece di partigiani attivi e soprattutto molto ma molto tosti, come la signora Rosina, che purtroppo è venuta a mancare 2 anni fa. E invece si parla anche, ad esempio, di normalissime persone che come mio nonno, ad esempio, che avevano scelto di non stare né da una parte né da un'altra. Avevano aderito solamente alle forze partigiane perché non volevano assolutamente andare a combattere con la Repubblica di Salò, che si era ricostituita nel 43. Ho capito. Beh, dovete sapere poi che Alessandro ci ha portato, è stato gentilissimo in questo senso, ci ha portato degli estratti del suo lavoro e degli estratti delle interviste. Adesso, grazie ad Elisa, che anche questa sera ci accompagna nella trasmissione, andiamo a leggere un primo estratto. Noi, da Fagnigola, siamo entrati tutti e cinque là, a gruppi di 20, man mano che veniva fatto l'appello, ci hanno portato a fare la doccia. Allora, ogni 20 persone ci hanno spogliati. E lì, prima hanno fatto uscire l'acqua calda, bollente, proprio calda. E a un tratto hanno fatto uscire acqua fredda, gelata. Abbiamo avuto una momentanea perdita dei sensi. Dopo qualche minuto, 5 minuti, che eravamo lì, o 10, che non so, perché io dal momento in cui sono stato condannato a morte, ho perso la cognizione del tempo, ho perso i giorni, le date. Io ero alla disperazione. in velocità ci hanno dato il vestito della zebra, quello lì, e in velocità dovevamo vestirci, attraversare tutto il campo, e siamo arrivati, e io sono partito con il mio vestito sotto il braccio, nudo. Ho attraversato tutto il campo, dove c'erano 40 centimetri di ghiaccio, e tutta acqua, perché c'era un blocco di neve e ghiaccio. Ho fatto 200 metri nudo, e ci hanno portati al blocco, tutta la tradotta, al blocco 22. Là abbiamo passato la notte. Alla mattina, quando hanno suonato la sveglia, è arrivato un italiano, che era dentro il blocco 2, che si chiamava Pinto di cognome, un triestino. Era lui, che non so da quanto era dentro. Era dentro il campo, non so se fosse un prigioniero. Si è seduto su un tavolino e uno alla volta ci diceva: venite avanti, avanti uno, avanti un altro. E ognuno doveva dargli il nome, cognome, mestiere che facevi. Lui ti dava il numero di matricola. Non esisteva più il nome Battiston Luciano. 1-2-6-6-2-5. Dopo passavi avanti da lì. C'era il barbiere, nudi, e ti rasavano dalla testa ai piedi, e con il rasoio ci facevano una croce sulla testa. Era il simbolo che se per caso scappavi, sapevano che tu provenivi da Mauthausen. Rasati, con la croce fatta, con il rasoio, della profondità di 3-4 centimetri. C'erano prigionieri che ti rasavano sempre, perché quando, ad una certa ora, all'incirca mezzanotte, venivano a fare il controllo dei pidocchi. Allora dovevi andare su uno sgabello, alzare il di dietro, in mezzo alle gambe, dappertutto. Se per loro in un periodo avevi aumentato i capelli o la barba o i peli del corpo, ti passavano dal barbiere e ti rasavano. Mi hanno dato un numero di matricola. 1-2-6-6-2-5. Era come un braccialetto, come una targa di latta, con un filo di ferro, che dovevamo metterla sul polso sinistro e sul vestito dalla parte sinistra del cuore. E sulla parte alta dei pantaloni dovevamo mettere il nostro numero. Avevo un tondo rosso, uomo pericoloso. Io non lo ero, ma per loro, con quello che... È per quello che io ho avuto tutti questi inconvenienti, perché mi hanno classificato dentro il campo uomo pericoloso. Thank you. siamo sempre in compagnia di Alessandro Fantin qui sui 102.2 di Radio San Donà e del suo lavoro di ricerca che ci stava un po' iniziando a illustrare. Cosa abbiamo sentito? Allora, abbiamo sentito innanzitutto la testimonianza del signor Luciano Battiston, matricola 126.625. Volevo sottolineare una cosa, il fatto dell'uomo pericoloso. Uomo pericoloso viene segnato tramite appunto questo triangolo dalla punta rovesciata rosso. All'interno lui chiaramente nella foga del discorso si è dimenticato di dire che venivano impresse le due lettere della provenienza, nel suo caso c'era scritto IT, Italia. Uomo pericoloso perché appunto durante questo rastrellamento era stato accusato di aver insieme ad altri compagni segato le linee della teleferica dell'SS di Pordenone, cosa tutt'altro che vera visto che era a casa con la sua famiglia, e viene rastrellato perché appunto in quel periodo lì per far paura i rastrellamenti erano diciamo pane quotidiano purtroppo per quelle zone. E soprattutto anche per il nord Italia, pensiamo anche alla zona di Cuneo, è praticamente sì, la fotocopia della zona del Friuli Venezia Giulia. Ritornando al discorso, scusate un attimo la digressione, uomo pericoloso appunto perché lui era stato condannato a morte per questa cosa, per il discorso del taglio dei pali della teleferica, solamente che viene graziato, però nel fatto di essere graziato viene mandato a Mauthausen in Austria. Mauthausen è molto vicino a Linz, per farvi capire un po' geograficamente la zona di cui stiamo parlando. Uomo pericoloso vuol dire che eri spesso e volentieri alla mercé dei capò e di tutti quei deportati che facevano, diciamo, le veci degli aguzzini. Dico le veci perché le SS erano i veri aguzzini. I capò erano solamente, come si può dire, il braccio, le menti, le vere menti della cosa erano appunto i funzionari dell'SS che lavoravano ed amministravano il campo. Quindi uomo pericoloso perché nemico del Terzo Reich, e quindi per questo ha subito pestaggi, violenze, tant'è vero che quando è ritornato a casa, oltre a pesare 28 kg, un uomo di 1,80 m, aveva allora la clavicola rotta, la mano rotta, la scatola cranica fratturata, aveva il tifo, il paratifo, e in quel periodo lì ha avuto due deliri mentre era ricoverato in ospedale. E questo te l'ha raccontato lui, ci dicevi, durante questa intervista, oppure è materiale che poi hai raccolto anche attraverso, non so, le famiglie? Cioè, è una domanda che mi sorge, è come le famiglie si sono strette intorno a queste persone, come hanno vissuto il ritorno, ad esempio? Allora, ci sono... Io dopo comunque ho fatto anche altre ricerche, altri tipi di... con altre persone, con altri, diciamo, possibili testimoni. Spesso si nota, ci sono due tipi, le famiglie a cui questo importa molto e sono molto stretti intorno al sopravvissuto, li chiamo io, e altre famiglie invece che se ne disinteressano totalmente. Anzi, spesso sono famiglie tendenzialmente nostalgiche di certe cose. Ho capito. Quindi cose paradossali sotto un certo punto di vista. E quindi tentano in qualche modo di rimuovere, sì, quello che per loro è assolutamente cosa passata, dai, è passato, andiamo avanti. Insomma, questa cosa fa un po' male a loro, in maniera viscerale a me, chiaramente, come studioso di questi argomenti. Non so se avevi qualche... Sì, certo. No, abbiamo visto un estratto dell'arrivo in un campo di concentramento. Poi tu raccogli anche molto materiale sulla vita nel campo. Assolutamente, raccolgo moltissimo materiale, tant'è vero che oltre alle testimonianze vere e proprie, cerco attraverso la corrispondenza via mail, la corrispondenza cartacea, la collaborazione della Croce Rossa, dell'ANED, come di Milano, di Udine o di Pordenone, nei casi che appunto ho analizzato, ma anche dei lager stessi, dei memoriali nei lager. Infatti di Luciano Battiston, ma anche di molte altre persone, ho carte della Croce Rossa, ho l'entrata nel lager con, tra l'altro sono molto dettagliate queste carte, gli viene indicato luogo di nascita, tutti i dati anagrafici e anche i trasferimenti, perché nel caso del signor Battiston che Elisa ha appena letto, sono indicate tutti quanti i trasferimenti nei sottocampi. Tieni conto, Alvise, che se a Mauthausen ogni giorno morivano 2000 persone, l'ambiente era molto grande, quindi volendo potevi anche riuscire a scampare certe cose, in un sottocampo la morte era praticamente quotidiana. Perché era un ambiente molto più ristretto. Era molto più ristretto e chiaramente la vita era molto più dura. Tieni conto che volevo aggiungere, poi continuiamo, che Mauthausen è l'unico lager di terzo livello, cioè i documenti che ho trovato, Mauthausen terzo livello vuol dire indesiderato. Cioè tu da là non dovevi uscire, dovevi essere ammazzato tramite lavoro. Quindi per ritornare a quella distinzione tra campo di concentramento e campo di sterminio, Mauthausen sarebbe un campo di sterminio. Mauthausen è un campo di sterminio, però tieni conto di questa cosa qua. Fino al 43 tutti coloro che entravano in un lager erano da ammazzare tramite lavoro, ma soprattutto i lavori inutili, tipo caricati questo masso da 50 kg e lo porti a 10 metri e lo lasci là, non c'era utilità, tranne all'inizio quando dovevi costruire il campo, che sono stati deportati stessi a costruire il campo stesso. Dal 42 in poi, visto che l'SS avevano costruito delle società sotto il nome Faber, sfruttavano i deportati per i lavori, quindi il lavoro coatto era dato in mano ai deportati, tant'è vero che questo, ci sono libri che lo documentano, tot deportato corrisponde a tot guadagno. Chiaramente se t'ammali, se ti fai male sul lavoro, ti elimino, vieni rimpiazzato. Quindi tutti questi deportati, tutta questa manodopera coatta ha fatto in modo di aiutare anche l'economia bellica tedesca, tenendo conto che però una delle prime forme di resistenza nei lager nasce appunto da questa, la resistenza passiva, cioè quel non vole, sì, io vado a lavorare, mi costringi perché sennò mi ammazzi, però io mentre faccio lavoro o lo faccio male, o che ne so, potrei fare un atto di sabotaggio, che ne so, rompo il tornio, rompo la punta del trapano. Chiaramente se ti beccavano eri morto per sabotaggio e chiaramente venivi impiccato perché avevi sabotato il Terzo Reich. Questa però è stata una delle prime forme di resistenza. Quindi quando mi parlano che tutti coloro che sono stati deportati non si sono ribellati, è una menzogna, perché la prima resistenza viene da lì. Io a questo proposito, nella mia scarsissima conoscenza della materia, posso citare un film di cui ora mi sfugge il titolo, ma mi verrà, spero, nel corso della conversazione, in cui si parla di dei falsari ebrei che diciamo disegnano moneta, disegnano sterline, disegnano dollari e li progettano in modo poi da metterli sul mercato e quindi finanziare lo sforzo bellico tedesco. E in quel caso lì si vede in effetti il dramma di questo gruppo di, diciamo, una decina di prigionieri, perché due operano una serie di sabotaggi all'attività che in virtù della loro fede e la loro volontà di resistenza, in sostanza. E questo è, credo sia anche un dramma abbastanza diciamo abbastanza intimo e personale, nel senso che da un lato vorresti fare un qualcosa che mette in difficoltà i tuoi avversari, per contro sai che la tua sopravvivenza potrebbe essere a rischio nel tuo fare sabotaggio. Assolutamente, mio nonno diceva sempre: prima veniva la sopravvivenza, poi esistono gli altri. Lui comunque si è fatto tutto quanto il viaggio in campo con il suo amico Vigi, che lo ha aiutato più di una volta a sopravvivere, perché in campo quando tu cadi per terra hai il colpo di grazia perché non ce la fai più. Lui lo ha sostenuto parecchie volte facendo capire ai capò che comunque per mio nonno non era ancora finita. E quindi lui mi dice sempre: sì, devi pensare a te stesso quando sei in certi ambienti, in certe condizioni, però senza una persona non saresti, non, lui mi diceva che non sarebbe mai potuto sopravvivere. Tieni conto che, visto che è tornato a casa a piedi da là, cioè si è fatto il travaglico delle montagne, che lì, credimi, ci sarebbe da fare una trasmissione solamente per il viaggio di ritorno, visto la slitta che si sono fabbricati da soli per scendere dalle montagne innevate. Insomma, c'è veramente, è un racconto veramente appassionante, forse più appassionante quasi della vita quotidiana nel lager. Bene, senza il suo amico, che dopo purtroppo si sono lasciati in malo modo, perché sai, dopo questa esperienza ti senti quasi un sonnambulo, deve essere traumatizzante, per veramente cui... traumatizzante. Tieni conto che dopo questo suo amico è emigrato in Canada, è morto lì. Forse il più grande rimpianto di mio nonno è stato questo, cioè non avergli mai chiesto scusa. E su questo andiamo adesso a leggere un secondo estratto dal lavoro di Alessandro che ci ha portato. Un giorno, nella nostra baracca, manca uno, ma non si sapeva chi. Non avrebbero rotto le fila. Il maresciallo ricontava di qua e di là. Torna giù a vedere se magari era tornato in un'altra baracca. Non c'era. Allora il capoblocco dice: vado a cercarlo. È uscito dalle mura dei blocchi di quarantena. Va lungo il cortile, verso le cucine, e lo cerca. Io ero nelle prime file della conta. Ho visto tutto. Il capobaracca stava rientrando, tenendo per un orecchio il detenuto. Ho passato la voce borbottando qualcosa, perché là eravamo di tutte le lingue e dicevano di aver visto. Quello che faceva la conta era in fondo. Viene giù dalle scale, toc, toc, toc. Parlano i due in tedesco e dice: dov'era? Dietro le cucine, che cercava da mangiare tra le immondizie. Lo avvicina, gli dà un pugno in testa. Cade. Com'è caduto? L'altro gli monta sopra sulla pancia. Qua ha fatto "Wah!" Sto povero disgraziato. Mi sono girato. Non ho guardato. Dopo questo fatto, tira fuori il libro con i numeri di matricola e allora registra la morte. A posto, dice. Ha fatto una risata e va via. Ecco, quello non l'ho mai dimenticato. L'avrò detto tante volte. Chi crede, crede. Guido ha visto e son sicuro di ciò che dico in quelle parole. Che qualcuno dice: impossibile quelle cose lì. Bisogna vedere per credere. Io sono stato dentro. Ho visto. Ero a 3 metri. Non so se dopo l'hanno portato al crematorio o in infermeria, ma tanto non è tornato più. I'm a high school lover. My favorite flavor, our love is all on my soul. You're my playground love. Yeah, my hands are shaking. You're the piece of gold that flushes on my soul. Extra town on the ground, you're my playground love. In questo invece, Alessandro, che cosa abbiamo sentito? Allora, in questo spezzone che Lisa ha letto, abbiamo sentito il signor Guido Catarossi. Il signor Guido Catarossi abita a Tarcento attualmente e ha una situazione un po' particolare il signor Guido Catarossi, perché purtroppo ha avuto un solo figlio ed è morto di cancro al cervello all'età di 30 anni. Questa cosa lo ha segnato forse quasi come il campo di concentramento. Anche lui a Mauthausen, tra l'altro. Lui si era arruolato nei partigiani perché non condivideva assolutamente la linea nazifascista, la linea politica nazifascista. Viene catturato, viene mandato ferito lì a Mauthausen, e mi sono rimaste tre cose fondamentalmente da quella intervista. Uno, il fatto che sono completamente soli lui e la moglie, cioè non hanno né parenti che li vadano a trovare, sono totalmente isolati, a meno che, sai, non ci siano le conferenze, le riunioni dell'ANED, oppure comunque qualcuno che va a trovarli, sono totalmente soli, e questo comunque fa molto male. Eh beh, sì, fa molto male. Infatti appena sono andato lì mi hanno invitato, sono stato lì a mangiare, insomma, oltre, chiaramente ogni volta durante ogni intervista c'è quel prima e quel dopo che ti fa entrare molto in confidenza con chi deve essere intervistato. Beh, anche perché se decide di aprire, immagino che se decida di aprirsi su un tema che è così, credo, così insito e così ben fisso nella memoria, diciamo, credo che alla fine possiate considerarvi amici alla fine. Assolutamente sì. Guarda, ti dirò di più, secondo me è quasi un passaggio del testimone, cioè io ti lascio questo, mio nonno me l'ha detto in faccia, io ti do questo. Infatti questo secondo me è la cosa proprio bella del tuo lavoro, ossia è un discorso che usciva prima nel fuori onda, ma vediamo di estenderlo. In sostanza la scelta anche di questa metodologia che ha impiegato Alessandro, che in sostanza si rifà alla storia orale, è una scelta che dà voce a qualcuno che in qualche modo altrimenti voce non potrebbe averne. Assolutamente, come diceva prima Levi, è la voce dei sommersi. Esatto, e tu stai facendo qualcosa, adesso ci raccontavi, perché questa voce continui a spargersi. Assolutamente, diciamo. Sì, noi attraverso il movimento L'Alba, che è stato fondato da molto da veramente pochi giorni, cerchiamo attraverso la collaborazione dei comuni di portare tutte queste testimonianze alle orecchie di più gente possibile. Ad esempio cercheremo in qualche modo di organizzare una sorta di lezioni sulla deportazione, lezioni sul nazismo, e soprattutto il fine di questa sorta di movimento giovanile è questo: saper dir di no, perché è sbagliato dir sempre di sì. E da lì anche mi colpisce la scelta del nome, perché l'alba? L'alba si rifà sicuramente all'immagine del sole che nasce, cioè di questa consapevolezza che vuole tornare a rifiorire noi stessi, e soprattutto sapete benissimo che dopo anche la notte più buia rinasce sempre il sole, per questo l'abbiamo chiamato così. E io spero che tu abbia anche altre occasioni a parte questa offerta dalla radio e il tuo recente intervento al comune di Cavallino Tre Porti, di presentare il materiale che hai raccolto. E ci parlavi della possibilità di una pubblicazione che avrai di questo materiale. Assolutamente, attraverso il centro di ricerca e lo studio della resistenza di Gradisca di Sonzo, prossimamente sarà appunto edito questo libro che raccoglie tutti e due i miei lavori di ricerca sul campo, e innanzitutto è una soddisfazione per me, ma lo trovo anche una sorta di rivalsa di tutti coloro che purtroppo non ce l'hanno fatta perché alla fine di comunque ogni discorso che comunque tengo ai ragazzi o comunque anche ai non più giovani, magari anche chi li ha vissuto le stesse cose, è appunto questo, cioè non dobbiamo far sì che questa gente sia morta per niente. Certamente sì, Assolutamente. questo. Se mi lasci finire, volevo dire le ultime due cose. Avevo detto tre punti che mi avevano colpito dell'intervista al signor Catarossi. Allora, ti ho detto il fatto di essere totalmente isolati, diciamo così, dal mondo per quanto riguarda parentele, perché appunto non hanno la possibilità di avere contatti con altre persone. La seconda è questa, cioè. Mi è rimasto colpito in maniera veramente incredibile quando mi diceva che appena hanno liberato il campo, sono corsi tutti nelle cucine per prendersi da mangiare, per arraffare quello che trovavano. E c'era questo calderone con questa sorta di minestra e loro continuavano a mangiare, mangiavano, mangiavano. Lui è arrivato di colpo e si è fermato, perché questi qui stavano mangiando e c'era il cadavere che stava girando intorno dentro la minestra. Uno chiaramente era caduto ed era affogato. E loro, chiaramente in balia di tutto quello che c'era, di tutta la situazione, chiaramente continuavano. E dopo la terza cosa, forse quella che veramente mi lascia anche un po' emozionato, spesso mi lascia emozionato, che quando è stato liberato e hanno detto Cattarossi Guido, a lui è venuto un magone, perché non era più il numero di matricola. Lui lì si è sentito liberato. Ritornava a Quella è essere stata, persona. esatto, quella è stata la sua vera liberazione, dice sempre. Questo, volevo concludere con questi tre punti perché è una delle testimonianze che mi ha più colpito assolutamente. Anche se le testimonianze delle donne, quelle che forse, non tanto per essere meno forti, perché non è assolutamente vera, anzi, forse hanno sopportato il lager in maniera sicuramente più positiva e con più forza rispetto agli uomini. Però ho trovato il signor Catarossi molto una persona molto sentimentale. Non prenderla in maniera negativa, ma un sentimentale del tipo ti fa rivivere le emozioni che ha provato. E credimi, non sono come si può dire, emozioni da poco, per dirti la verità. Infatti, anche adesso mi trovo anche abbastanza emozionato nel riportartele, per dirti la sincera verità. Per un ultimo chiarimento per chi ci ascolta, che età hanno queste persone quando entrano nel campo di concentramento in media? Allora, guarda, in media hanno 20 anni. Solamente il signor Nashin Ben, che ho intervistato, che purtroppo è venuto a mancare 3 anni fa, aveva 16 anni. E quindi giovanissimi, e pensa come questa parte della loro vita che per quanto è un anno, è brevissimo, rimane ancora così vivido nella Guarda, loro. posso assicurarti che anche che se tu entravi e avevi 30 anni, se ti facevano passare la selezione iniziale, comunque, anche se con la maggiore età, col fatto di essere più anziano, più adulto, potevi in qualche modo incamerare certe violenze e magari non fare in modo che si ripresentino in un futuro, ci sono spesso segni di queste violenze. Ad esempio, mio nonno non ci vede più con l'occhio destro. Ad esempio, il signor Mascherina ha il segno di un morso dietro l'orecchio destro. Perché è chiaro che durante la notte, non mangiando, si verificavano molti episodi di cannibalismo. Sconcertante. Queste cose hai assolutamente ragione nel dire quando dici che ci deve essere uno sforzo attivo della nostra generazione e delle generazioni future affinché queste cose non vadano dimenticate. Assolutamente sì. Tieni conto che volevo riportarti quello che Vincenzo Papalettera scrive nel Tu uscirai nel cammino. Volevo riportarti questo di Papalettera e la testimonianza della signora Millu. Queste due persone sono degli autori sulla deportazione che hanno vissuto di prima persona Papalettera il campo di Mauthausen e la signora Millu il campo di Auschwitz. Papalettera raccontava questo, che un giorno dice ad un capò: ma vedrete che un giorno, se qualcuno uscirà, ve la faremo pagare. Era nel periodo finale, di modo che potevano anche permettersi di dire una cosa del genere ad un capò, se no con il gummi il gumi sarebbe un'asta d'acciaio ricoperta di gomma, te l'avrebbero suonate di santa ragione. Lui ha detto a Papa Lettera: beh, anche se esci nessuno ti crederà mai. Come ti fanno a credere che noi abbiamo fatto una cosa del genere? Questo. La signora Millu invece, nei suoi libri, ha pubblicato diversi libri sulla deportazione, incentrando soprattutto facendo in modo che i punti focali fossero proprio le esperienze di donne nel lager, non soltanto la sua, ma anche quello che vedeva appunto nei campi femminili di Auschwitz, di Ravensbrück, poi dopo con le famose marce della morte, man mano che l'Armata Rossa avanzava, spostavano i deportati, chiaramente in qualsiasi condizioni, chiaramente i malati venivano uccisi sul posto. Bene, la signora Millu, questa signora che purtroppo non c'è più, questa grande scrittrice sulla deportazione italiana, raccontava che un giorno, era entrata bambina, ha chiesto: ma dove avete mandato mia mamma dopo la selezione? Una SS si avvicina e gli dice: bene, quel fumo là è tua mamma. Raccapricciante. Io purtroppo devo ringraziarti e andiamo alla conclusione di questa puntata. Ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo apporto, per il tuo contributo, perché è qualcosa che, cioè, veramente sono orgoglioso di averti avuto qui e ti ringrazio ancora. Grazie a voi. E concludiamo con una nota positiva, che è un ritorno a casa, ossia la testimonianza di un ritorno a casa. Vuoi presentarla tu? Sì, allora la testimonianza di mio nonno che ritorna a casa dopo essere ritornato a piedi da Mauthausen, dopo aver trasvellicato le montagne, dopo aver superato diverse peripezie. Per quanto riguarda il ritorno a casa, infatti, come ti dicevo nel fuori onda, sarebbe quasi da fare una sorta di trasmissione solamente per il ritorno a casa, e secondo me verso la fine di quanto Elisa leggerà ci sarà una cosa che penso lascerà molte persone con il magone, e ve l'ho portata perché è una cosa che anche a me fa molto piacere condividere con tutti voi. Grazie comunque a voi. Grazie a te. Dopo un po' di giorni sono tornato a casa, mi hanno dato la cura da fare. Prima di andare a casa, il professore aveva voluto pesarmi. Il peso dell'ospedale era 28 kg. Sono arrivato a casa. Ho ordinato il menù che dovevo mangiare e tutto. Per tornare forte fisicamente, ci ho messo quasi un anno per tornare alla vita normale. Da quando sono venuto a casa, per un anno di convalescenza, ero tra la mamma e i fratelli che mi dicevano: vieni qua Luciano, mangia, bevi. Volevano come alleggerirti l'esperienza del campo. Ho anche dovuto fare da testimone al processo dei tre fascisti spie. Quando sono entrato in aula, loro tre erano nelle gabbie e mi ridevano in faccia. Sono svenuto. Mi hanno portato fuori in barella e dopo sono rientrato. Le mamme di quelli condannati a morte con me e fucilati dopo hanno detto: basta sangue, basta sangue. E io cosa potevo dire? Ho detto al giudice che se le mamme perdonano chi gli ha ucciso i figli, anche io perdono. Il capitano Vetturini lo avevano fucilato fuori dal cimitero, e mio papà e un suo amico, per essere sicuri che lo avevano fucilato, sono andati a Pordenone in bicicletta e si sono fatti aprire la bara. Intanto che mi stavo riprendendo, mi sembrava di essere un sonnambulo, non ero lucido, ero strano. Pensa che un giorno ho saputo che in comune c'era un ufficio per i danneggiati dalla guerra che dava due salami, un litro di latte e un vasetto di miele. Io volevo il miele. Sono andato e c'era Vigi che dava questa roba. Mi metto in coda e a un certo punto, quando tocca a me, non c'era più miele. Io volevo il miele, non mi interessava l'altra roba. Ho detto: Vigi, ma proprio a Mite me fa questo. Lui dice che gli dispiace e chiude lo sportello. Lo prendo per il bavero della camicia, ci spingiamo finché non arrivano i carabinieri e ci dividono. Poi Vigi è andato in Canada. Non l'ho più visto. Mi dispiace, ma non ero io. Non ho più potuto scusarmi. Mi aveva salvato, ma io non mi rendevo conto, perché ero come un sonnambulo.